Dolcetto o diritto? Continuiamo a bussare alle porte non per chiedere caramelle, ma per reclamare inclusione, accessibilità e rispetto. Perché la vera magia non è nei costumi o nei dolci, ma in una società capace di accogliere ogni persona senza barriere. Che il 31 ottobre porti con sé non solo zucche accese, ma anche idee luminose, coraggio e un pizzico di ironia per affrontare ogni mostro abilista. Buon Halloween da Attivamente!